Oggi, oggi secondo giorno che sto qua. Ma hanno parlato come sto, come sto bene, questi. Cioè, allora vediamo cosa dice Dulcici. Dopo 9 anni c'è un po' casinato, signore. Facevo documenti, allora loro... Allora dici, vai via, non si può, tra espulsione, per forza andare in Romania. Ma perché c'è che, perché solo motivi, poteva dare una scienza per lavorare. No, per fare qualcosa. Allora, non si è potuto niente, dice che dopo domani, subito in Romania. Io quando ho sbagliato per prendere, rubare, mangiare, hanno pagato. Quando non sbagli, perché portarmi indietro? Rovinare la vita, basta. Loro mi portano indietro, vengo l'aereo indietro, lo stesso. Mi hanno preso a Palermo, ero lì, e quindi mi hanno preso sopra l'autobus e io non avevo biglietto e quindi sono rimasta senza biglietto. E ho dovuto andare in questura a dormire 2 giorni e poi mi hanno portato qui perché c'ho l'espulsione. Però io ho avuto i documenti, mi sono scaduti e li dovrò fare di nuovo. Però comunque questi posti di centro accoglienza è molto brutto. No, non ho parlato con l'avvocato perché c'ho un avvocato, però... lui è venuto pochi giorni fa a parlare con me e mi ha detto che presto uscirò di qua, penso di uscire ad aprile il 24. Sono 16 anni che sono in Italia con un permesso di soggiorno regolare, ho lavorato 16 anni e sono finita qui perché mi è successo un problema, che sono andata in carcere, sono venuta assolta e mi hanno portato qui perché non mi hanno rinnovato più il permesso di soggiorno. Per questo motivo mi trovo qua, è 6 mesi che sto qui, adesso sono libera, mi hanno liberata per termine prologa e sono contenta.